I due muli da favole di Jean de La Fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi luglio 2007 Roma. Un mulo che portava sulla schiena dei sacchi d'or per conto dello Stato tutto superbo camminava al lato d'un altro mulo carico d'avena. Agitando la criniera con la bella sonagliera del nemico ei fu cagione che attirasse sull'oro l'attenzione. Tratta dal buon bottin, ecco, una banda piomba sul regio mulo e una tempesta di colpi piove a lui sopra la testa che invan sospira e ragli al cielo manda. Poveretto, esclama, a morte mi conduce l'alta sorte. Te, felice, che d'avena non di tesor hai carica la schiena. Buon amico, è questo il guaio degli impieghi illustri ed alti, gli rispose il camerata. Meglio il mulo d'un mugnaio che il dover far certi salti. Fine della favola I due muli. Questa è una registrazione di dominio pubblico.